ancora rido po' quando penso alla scialla. Ce l'ho e mi ricordo che a scuola l'ultima mezz'ora stavo sempre con il bravo da con tipo mora. Mi dicevano di lei qualcosa che si innamora, ma sono bloccato, lo farò magari dopo quando penserò a scialla. Chiama dopo, sto chillando, c'è Saretta nel mio bagno. Questa notte me la mangio, gnam. La mia tipa è un architetto, che bello, può ricostruire i club che ho distrutto. Sto tranquillo, cucino una pasta al pesto. Vieni se sei un tipo a posto. Sto tranquillo, morbido come un marshmallow, carico come un carrello. Oggi mi sono svegliato bene, volevo rapinare una banca. Però fa caldo, sbatti col passamontagna, quindi scialla. Io non voglio starti addosso, però voglio pure starti addosso. Questo bel discorso può anche farmelo sopra il mio letto. A scuola l'ultima mezz'ora stavo sempre con il bravo da con la tipo mora. Mi dicevano di lei qualcosa che si innamora, ma sono bloccato, lo farò magari dopo quando penserò a scialla. Penserò a scialla.